Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Ciao a tutti, benvenuti a un'altra puntata di Lucciole nelle tenebre. Siamo tornati noi, la coppia di fatto della radio. Ciao a tutti, io sono Pietro. Ciao, sono Francesca. Allora, bando alle ciance. Noi oggi abbiamo piacere di parlare di un tema che a noi presidio universitario sta molto a cuore, perché infatti nel 2012 abbiamo deciso di dedicare il nostro presidio ai ragazzi della Casa dello Studente, vittime del terremoto del 6 aprile 2009 che ha devastato L'Aquila. E appunto abbiamo deciso di ritagliare una puntata per loro a 5 anni dal sisma, per capire un po' come sta L'Aquila e come la situazione adesso nella città, che in realtà non è più una città, è quasi una città fantasma. Sì, noi tra l'altro ci siamo stati l'anno scorso e appunto possiamo confermare che passando nel centro della città sembra di essere in mezzo a dei velieri, perché ci sono le case completamente ricoperte di transenne e appunto non vedi gli edifici, è una città effettivamente deserta e ci aveva fatto molta impressione. Assolutamente, tra l'altro abbiamo avuto anche la fortuna sabato scorso di avere al nostro Libera Duno, la nostra festa, durante una conferenza, un evento che abbiamo organizzato, l'avvocato Vagna della Vigna, che rappresenta molte vittime del processo che dopo sentiremo, Giuseppe Caporale, che è un giornalista di Repubblica che si è occupato di tutte le inchieste sull'Aquila, e quindi abbiamo appunto avuto un momento con loro. E fra l'altro la vicenda dell'Aquila inizia male e forse prosegue peggio, nel senso che noi abbiamo dedicato il nostro presidio alla Casa dello Studente perché appunto è una casa che è crollata durante il sisma, ma perché è costruita male, perché altrimenti non sarebbe crollata. Quindi le vittime di quel terremoto sono vittime di una mala amministrazione che ha dato appalti in mano a ditte che non meritavano di ricevere quell'appalto, e coloro che hanno eseguito i lavori sono persone che hanno costruito una casa che di fatto non era conforme alle regole sismiche, né appunto come ci diceva poi Vagna, né nella costruzione né addirittura nella ristrutturazione della casa stessa. E quindi il nome del nostro presidio deriva proprio da questo, dal fatto che queste non sono vittime conclamate della mafia, ma noi riteniamo rientrino nelle vittime di mafia, perché intendiamo mafia come un fenomeno che coinvolge appunto tutte quelle male politiche, quelle male amministrazioni che comportano poi la perdita delle vittime della vita di diverse persone, o anche solo il vivere male di varie persone. E dico che è proseguita probabilmente anche peggio, perché vedremo poi durante la puntata come sta L'Aquila dopo il terremoto, quali sono le evoluzioni non sono per niente rassicuranti, e anzi confermano, diciamo, questa mala organizzazione, questa mala amministrazione di cui parlavo prima. Vi lasciamo un secondo con un pezzo che abbiamo avuto l'onore di sentire live sabato sera. Sono gli Spasulati Band, questo è Massimo Rispetto, ci sentiamo tra poco. Con le vostre parole e parole d'amore. dei tempi dei tempi. Amore, amore fraterno, ma questo non lo vedo da tempo. Massimo rispetto, massimo rispetto, massimo rispetto, massimo rispetto. Allora, abbiamo il piacere di avere via telefono l'avvocato Vagna Della Vigna, che è l'avvocato del foro di Teramo, che rappresenta molte delle vittime che purtroppo hanno perso la vita nel terremoto dell'Aquila, e che è l'avvocato di parte civile, è anche impegnato soprattutto nella sentenza contro la Commissione Grandi Rischi. Buongiorno e grazie mille della sua presenza, insomma. Buongiorno, grazie a voi. E noi abbiamo tra l'altro avuto la fortuna di ospitarla venerdì al nostro evento Libera Raduno, e già là un po' ci avete appunto raccontato cosa è successo all'Aquila poi post sisma, perché ovviamente in quei giorni eravamo tutti scossi, però poi magari è finito un po' nel dimenticatoio delle cronache, invece ci sono persone che hanno continuato a impegnarsi. Ecco, volevo chiederle innanzitutto di spiegarci un po' com'è la situazione adesso all'Aquila e come state portando avanti i processi, e poi volevo appunto una parentesi se ci poteva dire in cosa consiste esattamente il processo contro la Commissione Grandi Rischi. Allora, innanzitutto io sono stata molto onorata di essere vostra ospite e devo ringraziare Libera perché ha dedicato questo presidio alla Casa dello Studente, quindi a studenti come tanti altri che erano andati all'Aquila per coronare il loro sogno di laurearsi, di avere una vita migliore, e purtroppo molti sono morti ed altri invece sono sopravvissuti ma con lesioni molto gravi, lesioni psicologiche oltre che fisiche. E noi abbiamo avuto la fortuna di avere una procura, quella aquilana, che subito dal 6 aprile 2009 ha sequestrato i diversi edifici crollati, tra cui in primis l'edificio della Casa dello Studente, per stabilire quali erano le effettive cause del crollo degli edifici e quindi le cause della morte di tante persone, tra cui studenti universitari. Dalle perizie effettuate subito dal PM, dal pubblico ministero Fabio Picuti, è venuto fuori che le responsabilità sono dell'uomo, quindi che in quanto il sisma era un evento che poteva considerarsi quasi normale, considerando la sismicità dell'Aquila, considerando che la città dell'Aquila era stata già per ben 3 volte distrutta dal terremoto nel corso dei secoli e che quindi è una sismicità proprio tipica della zona aquilana o comunque della regione Abruzzo. E quindi la causa del crollo della casa dello studente è sicuramente causa da riferirsi alla responsabilità dell'uomo, quindi una negligenza, imprudenza, imperizia, mancato rispetto di leggi e di regolamenti. E questa purtroppo è una pagina molto dolorosa, una pagina dolorosa per le vittime e quindi per i parenti sopravvissuti. Particolarmente dolorosa è quando si parla di un edificio, che è la casa dello studente, che è un edificio pubblico, perché realizza proprio i dettami della nostra Costituzione, laddove la nostra Costituzione stabilisce che coloro che sono capaci e meritevoli, seppur privi di mezzo, hanno diritto a conseguire i più alti gradi dell'istruzione. Pertanto questo edificio era della Regione Abruzzo e quindi in questo senso la Regione Abruzzo doveva proteggere questi ragazzi. C'erano state tante scosse, c'era stato un periodo molto lungo di sciame sismico e quindi qualcuno doveva comunque provvedere a mettere in sicurezza questi ragazzi e forse a fare dei controlli, quindi sia l'ADUSU che la Regione Abruzzo dovevano provvedere a fare dei controlli per vedere se l'edificio era effettivamente a norma o comunque rispettava i canoni della sicurezza. Sono stati fatti i processi, ci sono stati condannati in primo grado degli ingegneri, dei tecnici, perché c'erano delle cause, delle anomalie genetiche fin dal momento della costruzione della casa dello studente e poi anche delle cause sopravvenute con la ristrutturazione, una ristrutturazione fatta male, che non rispettava quindi i canoni della giusta prudenza. E quindi sono state condannate le persone. Io nei giorni scorsi ho depositato un atto di citazione per un'azione civile che si affianca all'azione penale. Questa azione civile è proprio contro la Regione Abruzzo e contro l'azienda per il diritto degli studi universitari, proprio per quelle responsabilità civili. E queste responsabilità civili nascono anche nell'ambito delle responsabilità penali, quindi di tutto il lavoro effettuato dalla procura. Ovviamente siamo in attesa dei processi di secondo grado, quindi in corte d'appello, e quindi siamo anche garantisti, non vogliamo assolutamente che siano condannati delle persone innocenti, però vogliamo che tragedie come quelle aquilana non accadano mai più. Per quanto riguarda il processo contro la Commissione Grandi Rischi, devo dire che questa riguarda la mancata valutazione del rischio sismico e una inadeguata comunicazione. Infatti ricordo che il 30 marzo del 2009 si riunì all'Aquila questa commissione di scienziati per stabilire qual era la valutazione del rischio sismico dopo mesi e mesi di sciame sismico all'Aquila. E la valutazione e la conseguente comunicazione data alla popolazione attraverso i mass media indussero molte persone ad abbandonare i loro canoni di prudenza e quindi a fare in modo di non lasciare più le loro abitazioni, mentre prima molte persone quindi erano solite lasciare l'abitazione, andare fuori, cercare quindi riparo verso l'esterno durante e dopo una scossa sismica. Invece questo, dopo le rassicurazioni ascoltate tramite mass media da parte della Commissione Grandi Rischi, tutto questo non accadeva più. Pertanto durante le scosse sismiche, soprattutto di quella terribile notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, molte persone rimasero dentro e purtroppo i palazzi non erano costruiti bene e quindi queste persone sono morte. Sì, no, anche perché poi dopo la sentenza comunque molti giornali, soprattutto anche l'opinione pubblica, ha accusato, no, di fare una sorta di processo alla scienza, cosa che naturalmente si è rivelata assurda. No. Dunque, innanzitutto è vero quello che lei giustamente dice, pare che noi all'Aquila avessimo processato un po' Galileo Galilei. Questo non è così, perché comunque ovviamente noi siamo molto garantisti e quindi riconosciamo che ogni persona ha diritto ad essere giudicato e quindi ad essere condannato solo se responsabile o colpevole. Tuttavia i capi di imputazione del processo riguardavano la valutazione del rischio sismico e la comunicazione alla popolazione. Non si chiedeva a degli scienziati di prevedere un terremoto, perché il terremoto non può essere previsto. Certo, è un po' la scienza che si è piegata a logiche politiche, probabilmente, no? Questo ovviamente ce lo dirà il tempo, chiaro. E quindi noi siamo in attesa di questo, diciamo, di questo appello, e quindi vedremo un po' come andranno le cose. Va certamente bene. Io sono avvocato di parte civile, quindi devo riconoscere che sono depositaria di una verità di parte, chiaro, è ovvio. Va bene. Grazie mille davvero, sia per aver partecipato al nostro incontro, ci ha fatto davvero piacere, anche perché quando abbiamo deciso di intitolare il presidio ai ragazzi della Casa dello Studente li sentivamo davvero vicini, perché appunto noi studenti universitari come loro, e quindi davvero ci piaceva l'idea di così poter avere un momento insieme. Grazie mille, anche grazie del suo intervento, e buona giornata. Io ringrazio voi e ringrazio non solo a nome mio, ma ringrazio a nome dei parenti delle vittime e dei ragazzi che sono intervenuti anche nella vostra serata. Si sono trovati veramente molto molto bene, perché li avete accolti veramente con amore. Grazie mille. Arrivederci. Ringraziamo tantissimo l'avvocato, e adesso invece torniamo sull'attualità e su quello che succede oggi all'Aquila, che, come dicevo prima, appunto è una situazione che non fa presagire niente di meglio rispetto a ciò che c'era prima, ma anzi, a gennaio abbiamo avuto una serie di arresti, 4 arresti domiciliari tra ex assessori diversi indagati che vediamo figure quali appunto altri assessori, consiglieri, imprenditori e questa figura che è il mediatore di affari. Io mi sono chiesta: cosa fa tuo padre il mediatore di affari? Io un mi preoccuperei. Lavoro, ecco, vabbè. E comunque i 4 assessori che sono stati arrestati a gennaio. Tra cui anche il vice sindaco. Sì, infatti c'è il vice sindaco che è Riva. L'assessore ai beni culturali, che ci fa piacere visto che è quello che probabilmente è implicato nella ricostruzione, cioè il più implicato nella ricostruzione. E inoltre ci sono state queste, questo, non so, fulmine a ciel sereno, le dimissioni del sindaco Cialente, dimissioni che poi non sono state effettivamente confermate. Sì, lui ha annunciato mi dimetto in un lampo di onestà, di così di... E poi è rimasto incredibile, dimissioni annunciate mai però, verificate. Vabbè, tra l'altro la vicenda del vice sindaco è nei limiti quasi divertente, nel senso che questo ha ricevuto, il vice sindaco è di giunta di sinistra, ha ricevuto una mazzetta da 10.000 euro da un rappresentante ex assessore di Forza Italia, Pierluigi Tancredi. La mazzetta l'ha ricevuta in una bottiglia di cos'è che ti dicevo prima, Pietro? Grappa. Ci fa piacere. Uniscono l'utile al dilettevole. Dai, almeno sono un po' fantasiosi. Ecco, il fatto è che appunto fa venire i brividi questa situazione, fa venire i brividi soprattutto se pensiamo all'emergenza che sussiste all'Aquila e ai problemi delle persone che ancora vivono fuori dal cioè il centro è ancora totalmente disabitato, abbiamo una situazione desertica nel centro. Tra l'altro mi fa un po' venire alla mente la famosa telefonata che avrete sentito tutti la notte del terremoto, no? Tra gli imprenditori che dicevano io sto ridendo mentre accadeva il terremoto. Ero quindi... nel letto che ridevo, sì. Queste immagini sempre molto felici che ci però ecco il problema grosso è anche che la popolazione tuttora è relegata nelle new town, ma e fra l'altro oltre a vivere male nella propria casa, perché sono comunque appunto come abbiamo anche già riportato in altre puntate dopo che eravamo tornati dalla visita all'Aquila l'anno scorso, le new town sono effettivamente delle specie di ghetti dove c'è una piazza di cemento in mezzo, non c'è un bar, niente. I bar e i vari locali all'interno del centro stentano a riaprire naturalmente perché il centro è deserto, per cui come fare ad aprire un esercizio in quei posti. E in tutta questa situazione invece c'è questa specie di bolla a sé di persone che speculano sul terremoto e ai danni della popolazione, e che queste persone sono sia appunto assessori ma anche imprenditori, imprese d'appalto, costruttori, ingegneri, insomma tutta una serie di figure professionali che sarebbero essenziali in questo momento. E Giuseppe Caporale ha prodotto di recente una nuova inchiesta su Repubblica che invitiamo tutti da repubblica.it. E, e in pratica certifica appunto che i vertici di questa pseudo, non è un'organizzazione, sarebbe ingiusto chiamarla come tale, però di fatto non si allontana troppo dalle organizzazioni di cui noi parliamo spesso, si ritrovavano al bar La Dolce Vita all'Aquila e poi per scambiarsi le mazzette a Padova, bello mio, ecco, casa tua, casa mia, all'hotel, sì. Non so se tu lo frequenti, l'hotel Crown Plaza. Io c'ero in quei giorni. C'eri in quei giorni, mentre scappiavano le mazzette, io si scambiavano la grappa. Nei... no, stavolta le scambiavano nel Sole 24 Ore, imbustate nel Sole 24 Ore. Un po' più culturale. Sì, intellettualoidi, sì. Comunque no, invece l'altro aspetto di cui parlare, siccome appunto la richiesta che invece è stata fatta ai cittadini delle New Town, che perché c'è un debito che pesa sull'amministrazione locale di 11 milioni di euro, appunto legato alle bollette non pagate per quanto riguarda la luce, il gas e per tutte le erogazioni che sono state appunto che sono servite alle New Town in questo periodo. Quindi pesa anche questo forte macigno nell'amministrazione comunale aquilana, e in qualche modo dovranno riuscire a ripagarlo. Fra l'altro appunto l'amministrazione si è appellata ai cittadini che dovrebbero pagarlo, d'altra parte i cittadini dicono anche che le New Town che gli sono state fornite non cioè il prospetto che richiede questi soldi non è trasparente, i canoni con cui è stato valutato questo pagamento non dovrebbero essere uniformi per tutti, perché le New Town sono state affidate a diverse ditte di appalto e di costruzioni, per cui naturalmente sono state costruite in modo diverso e ognuna ha una storia a sé, e invece è stata fatta un po' tutta di un'erba e un fascio. Va bene, direi che purtroppo il nostro tempo è finito, però l'invito comunque secondo me è importante, quello di continuare a tenere gli occhi aperti sulla situazione aquilana e soprattutto sperare che nel futuro prevenzione non sia solo una bella parola che usano i politici, ma sia effettivamente attuato, perché poi di queste vicende veniamo sempre a parlare a posteriori, ce lo siamo detti tante volte. Sì, infatti, e poi soprattutto di, secondo me è molto importante tenere l'attenzione su una situazione del genere, perché appunto siamo stati molto, tutti molto bravi a commuoverci sul momento, a fare G8 all'Aquila e grandi promesse, poi di fatto passano 5 anni e la situazione è peggio di prima, quindi secondo me dovremmo tutti un po' impegnarci. Vi lasciamo alla nostra rubrica Buffier. Allora, eccoci di nuovo alla rubrica Buffier, la rubrica che ci piace tanto, che, di cui sarete tutti appassionati, insomma, a noi ci gasa tantissimo. Vi lascio lascio la parola a Francesca, che insomma si presenterà da sola, è bravissima a farlo, e noi invece ci sentiamo la settimana prossima, sempre il venerdì, sempre su Radio Città Fujiko, e dopo la Francesca metteremo un pezzo di Nuyu che si chiama Disegnerò. Ciao a tutti. Adesso vi leggerò una poesia di Nazim Hikmet che abbiamo dedicato l'anno scorso in un nostro reportage all'Aquila e che quindi ci sembra giusto riproporre quest'anno. Può darsi che io non arrivi un certo giorno. Può darsi che penzolando a un capo del ponte lascerò cadere la mia ombra sull'asfalto. E può darsi che anche dopo quel certo giorno io sia ancora in vita, irsuto di biancopelo. Se sarò vivo, dopo quel certo giorno, appoggiandomi ai muri per la periferia della città, suonerò il violino e canterò una canzone ai vecchi intorno a me, che come me saranno sopravvissuti all'ultima battaglia. E dovunque volgerò l'occhio, tutto sarà allegro, splendido e la sera stupenda. E ascolterò il passo di gente nuova che intona nuove canzoni. Nazim Hikmet. Ti ricordi quando mi chiedevi di raccontarti storie e favole che inventavo sì per te, immaginandole addosso a me, realizzarle perché no, si può, però a te piaceva la mia fantasia, ingenua e visionaria, promesse campate in aria e un lieto fine per ogni storia. Ti ricordi quando io mi divertivo un sacco ad ubriacarti con la mia voce calma e travolgente, ricca di dettagli per dare ritmo alla narrazione. Certo, i contenuti tenuti un po' vaghi, un po' astratti, ma tra te incantavo pure te, capace di sognare con quella voglia di trovare un nuovo mondo in uno sguardo. E più si cresce e mi ricresce, peggio per te se non credi più alle favole. E più si cresce e mi ricresce, peggio per te se non credi alle mie favole. Disegnerò una casa su misura per noi, per dare alle finestre la forma degli occhi tuoi. Una nuvola per letto e una stella per Amashu, il profumo d'arcobaleno dei biscotti che fai tu. Ogni proiezione del mio mondo immaginario ti lasciava a bocca aperta, ti lasciava senza fiato. La suggestione non è un reato, convincere i convinti di quel che sono stato, di quello che un bel giorno diventerò. Mi concedo il brivido, ci credo almeno un po', col mio carisma ti avvolgerò. La fiamma poi finita.